vabbè, tanto io lo stesso, non è che... Eia, vediamo se Gianni era entrato, è andato a portare il cane. Caspita, loro hanno detto che stava per piovere, qua stava già piovendo di brutto. Di brutto anche, poi si è calmato in fretta. Anche da te? Sì, Gappa, è qua, qua la stessa cosa. Come ti gioco io, tu la stessa cosa. Stava piovendo di rotto. Oh, cavolo. E ci ha vedere. Manco si muove. Bella gara. Mi piace questa boomerang. Tanto la boomerang grande c'hai. Cappa, la boomerang grande. Stazionarie. Così muovi. Zero. Dai, benissimo. Cappa, quanto è a fondo scala? No, fondo scala no. Però guardi dai. No, ehi, va bene, cappa. Si muove, guarda, non me ne dà fastidio, non me ne sta dando nulla, da quando l'ho regolata, l'ho mollata così, e buh, e arrivo quasi da tutte le parti, anche a muro se arrivo, non ho problemi. Vabbè, se la devo comprare io, quella lì per giù, la dovrò mettere sul tetto. Ecco, la cosa migliore fai, perché sennò magari ti dà di rompere le scatole. Te la metti sul tetto qua forte. È un casino risalire, mettere le staffe, cazzo, vediamo, là. Vediamo, tempo permettendo. Vado solo ordinare, solo sto aspettando questa qua, mi deve fare il rimborso, come me l'ha fatto, vabbè, non è quello, posso fare una ricarica, ci metto altre 50 euro dentro. Quanto l'hai pagata tanto? A me me l'ha lasciata, la verità, costava 48 euro, anche dal sito l'ho visto. A me proprio perché mi conosce, da tanti anni me l'ha lasciata 40. Ma Fusaro? Fusaro? No, non è caro, no, 40 euro me l'ha lasciata. Fusaro, cosa caro? Fusaro, via 4 novembre. Sì, l'ho preso da lui. Ma siamo da chi o la fa anche a me qua la cifra lì, ve lo conosco Antonello. Ehi cappa, ma è già io conosco tanti anni, conosco a Marte, a tutti. Ma già mi ha trattato bene. Ma mi sa che quest'estate c'è malata. Quando è, adesso ti lascio questa. Quando è, se me la dà mi pare che la faccio. Ci metto la cosa, la ringo ci metto. La isolo bene prima, perché quella lì rompi palle di antenna. La isolo bene, avvisi. Se me la regala, se la comprare non ne compro, ma se me la regala già me la piatto. Allora, sai quanti soldi ti ho lasciato? Comprando antenne TV, miscelatori e capo, non hai idea tu? Allora te lo fa lo sconto, te lo fa per forza. Ti conosci, te lo fa per forza. Ma da poco te l'hai comprata? Cappa, me l'ho presa da poco. Quando sarà? Due o tre settimane fa me l'ho comprata. Me ne ha fatto uscire a ganna taralla, Poi ho capito che cosa era, la dovevo girare. Io l'ho girata, l'ho messa girata e stazionare niente, non la devi mai mettere rivolta verso il cernaio, qua non la devi mai mettere, perché se no ti dà problemi. Tu la giri e lì è perfetta. Non arrivi bene, là. Paghi 6,20 segnale. Merci Marco, mi arriva quasi 9,30. Sì, super 2 così. Potrei uscire molto forte, potrei uscire solo che se tu la guardi questa casa, la guardi a Piazza Colonna Mariani, è appena infussata, capito? Vabbè, te sapete che vada bene. Ma dove c'è la baracchina? Sono in camera. In camera però, dentro, sopra il suo palco, diciamo, va. Oh Lu, qua Antonio arriva forte, siete praticamente uguali di segnale. Provato a attenuarvi, siete attenuati di Santiago 3, tutte e due. Però di radio passi tu, Vabbè. Non so, magari in posizione, non lo so, vabbè, ma andiamo là. Salutato. Problemi, di antenna, Marco. Io sono stazionarie, cazzo, a 1,5. Dopo taralla questa antenna, smontarla e pulirla. Adesso lo trovare, lo farò. Sono ancora vivo in primavera. sì, vivo, ci mancherebbe. Comunque un E5 è trascurabile, lui, assolutamente trascurabile, a meno che non usi lineari, che hanno i finali delicati, almeno quelli a transistor. Vabbè, ma sapere non scatta. Sì, non li fa niente, un E5 non è niente. Una spiega basso ricevitore, ah, in ora buona. Basta, rubato, rubato. No. Mi sento sotto, lo basso, lo basso, non passi. Questo baracchino, Antu, bisogna tarlo bene il coso, comunque arrivi forte, dai. E cappa. E tra me e Luca che passa, ma intende a me. Marco. Eia, facciamo la prova, Lu, ma credo di averne 4 e mezzo, il filtro me ne ruba uno, di base, quindi 4 e mezzo non dovrebbe essere. Se mi dici quanti anni cerco di metterli uguali, a occhiometro però, E capa, ti sento sotto, lui arriva fortissimo, Marco, Guarda, se mi passi tu, Luca mi passi, forse di radio mi passi, di segnale non lo so. Marco, ora. Sì, Luca passa di radio, siete praticamente identici il segnale, ma Luca passa di radio. Modulazione Luca si è sempre avuta forte e anche chiara. Allora discorso, vuoi attaccare questo baracchino da pochi bassi, se attacco l'altro o passo, quello l'ho modificato. Poi vabbè, aspetta, guarda, aumento. Così 10, 11, dai, i watt. Prendili per buoni, dai. Il problema io è che ho questo cazzo di radio, però adesso quando la cambierò sarà anche molto più forte di radio. Adesso è troppo, devo accontentarmi con quella, non la posso attaccare lui, perché se no satura, non la posso attaccare, è troppo ingresso. Ma male vi bene, ragazzi. Ah, tu non usci da bene. Devi comprare il 3009, quello che ci voglio uguale. E più non metti più 4, guarda che esci bene, e non lo tocchi più, lo lasci così, come senza fare regolazioni e niente, lo lasci così, come esci bene. Supera 3009. Capo, qualcosa vedo di prendermi. Io non. Purtroppo non ce l'ho. Cioè, mi devo accontentare di quello che ho. Questo qua è quello che. Quello piccolino è me, capito? Qualcosa attaccato, con la maravà. Ehi vabbè, dai. Io sono da farci due chiacchiere. Oh no, Marco, cosa dici tu? 3009 superstano, va bene per lui. Sì, a meno che non voglia puntare sul K, che almeno c'ha già i watt di suo, esce forte di modulazione. Io non mi trovavo tanto bene, cioè non mi piaceva il tipo di radio, non aveva squelcina M, cosa grave per me, perché io sempre lo squelci, io non sento quell'M, cioè quando modulate sembra di essere, quando mollate la portante, io sento silenzio, sembra di essere in TMR, capito? No, a me non piace, adesso è a me mi piace, come si dice, mi piace sentire... Ma scusate, avete parlato in due, ma Antonio ha alzato qualcosa perché Luca non passa più. Antonio è finito ronfio. Boh, come è successo? Boh, o si è abbassato Luca di una cosa infinitesimale o si è alzato Antonio? Non lo so, ripeto, io qua mi sto accorgendo che ho problemi. Ma i radiali ce li hai tutti di quell'antenna lui? O qualcuno l'hai perso, si è staccato col vento? No, no, ci sono tutti. Vabbè, buono comunque, dai, almeno. Vabbè, non mi prendi, Anto, dai che sono un po'. Devo mettere a posto qua il casino che ho combinato. C'è tutta roba in mezzo, eccetera. Cappa. Mi sto facendo scaldare un pochino, cazzo, sempre fermo questo gojo. Un pochettino l'alimentatore, ma non le fa niente. Ah, l'alimentatore a malapena. E che alimentatore hai, Anto? Il mitico GB Ciccio. BC 5 ampere continui, 7 picco, poi boh, si è rovinato, è ancora da aggiustare, è da aggiustare, no dico ad ampere, quanti ne hai? Ampere? 7 ampere c'ha. Aspetta, non ho copiato, fa Napoli a me, cosa c'è che non va qua? Ripeti Anto. Aspetta, c'ha 7 ampere c'ha. 7, certo, se metti un aiutino sono pochi, ce ne vogliono 10 almeno, almeno. Poi col baracchino attaccato allo stesso alimentatore anche di più, dai, 12, 15, eccetera. Avanti, avanti. Il DAC, il DAC. Infatti fa DAC, DAC, DAC. Allora, se c'è 7, dalla bere, Anto, dalla bere, cazzo. Mi rompo in questo. Lo sto vendendo 450 euro. Usalo DAC. Allora, DAC. Vedi come fa. Quando schiacci la portante fa DAC. No, no, se mi devo vegliare proprio un apparecchio buono mi prendo cosa è, chi 240. Avete schirreggia. E chi non schirreggia? Questo a 50 watt in AM e 100 in banda laterale, cosa pensi sia? È finito da 140. C'ha 400 canali, SSMI, è il più grande baracchino al mondo. Sono contentissimo, l'ho messo le valvole nuove. Schirreggia, schirreggia. Ha voglia, ha voglia, come dice un mio amico, mi ci dice ha voglia, ha voglia. Ha voglia, ma quello è solo AM o anche SSB, che non mi ricordo. Questo è AM, USB e SSB, non c'ha l'FM, essendo una radio americana, 400 canali, due potenze, 50 e 100. Oh, bello, più bello che mai. E l'SSB lo usi mai? Ah, non lo uso mai, mi sono mandato. Però c'è una bella ricezione, tanto c'ha due altoparlanti, una a destra e una a sinistra all'interno, c'ha tutti gli spacchetti, no? Perpendicolari, e c'ha due altoparlanti, per cui sente un bel bene, ma bene veramente. Sì, un bel esemplare quello, e poi ce l'hanno ben pochi, ben pochi. Però se non lo porti dall'America, col binocolo lo vedi, col telescopio lo vedi con l'apparecchio. Ehi, ehi. Ma chi ce l'ha a parte te? W? Io l'altro che c'è dove abitava Natalino è W, basta, c'è l'altro nessuno. In Sardegna ce l'abbiamo solo io, noi tre, basta. Ehi, pezzo raro, pezzo raro. Forse il più originale, chi è che l'aveva scambiato per un lineare, Claudio? L'aveva scambiato per un lineare. Ehi, Giorgio di Laconi, no, Giorgio di Laconi, Giorgio di Iglesia, sono animatore, perché mi stava cercando su quaretetta.com, eravamo in 80 metri, 3680. E mi ha detto non ci sei su QRZ, oh Claudio, ho detto no Giorgio, mi sono cancellato, ho detto a far vedere le cose mie agli altri, perché c'era la foto della stazione, c'ero io, insomma, su QRZ devi mettere tutto quello che hai. E ho detto guarda ti faccio la foto e te la mando, così ti rendi conto come sono organizzato, cazzo faccio la foto e mi risponde su WhatsApp, minca guardo, ma i testi questo uso lineare che hai, mi ha detto no, parlando di me, in sabato, un vocale mi ha mandato. Quel lineare che c'hai a sinistra, lineare, no, ho detto lineare a destra, cazzo lo c'è orbo, ho detto lineare a destra, non vedi l'FL2100 della Yaesu, no, lo uso, sante, lo uso mano a mano, con quattro strumenti grandi, sono rincoglionito, cazzo, adesso ti faccio la foto accesa, non vedi che è un baracchino, mica asciugato baracchino, e te baracchino esti? E l'hanno ingannato, sai cosa, quegli strumenti grande che ha, gli strumenti, sai, ne ha due, almeno due, no, se non di più, non mi ricordo, devo vedere la foto. No, ne ha quattro, c'ha il wattmetro, cioè il rosmetro, che praticamente gli strumenti sono uguali a quelli della ZG, tu hai presente un rosmetro della ZG, uguali, stessi strumenti, ed è il primo da sinistra, questo è il rosmetro, proprio con la calibrazione e tutto. Poi c'è la misurazione delle valvole come corrente di placca e i watt, due scale, ok? Poi c'è il modulometro che sta segnando sino all'80-90% e poi c'è lo smitter, grande, sempre tutte e tre, tutte e quattro uguali. tutte e quattro bianchi, con le lampadine sotto a siluro, e poi sotto, sotto nella radio, tutto quello che tu muovi di commutazione, di pulsanti eccetera, te lo segni. Adesso per esempio mi sta segnando che ho inserito l'accordatore di placca, disinserisco, no? Faccio così e mi dà la potenza e me lo segna power, ok? Poi c'è il coso dei canali che è rosso, c'ha 400 canali, e poi c'ha, se c'ha la GC, c'ha la GC come il 140, capito? La GC per la banda laterale, è completo di tutto, veramente molto molto completo, poi è grandissimo, enorme, bellissimo, tutto cromato. Non c'ho WhatsApp, se no avrei mandato la foto. Antonio forse non l'ha mai visto. L'hai mai visto tu da accanto? Bello, bello, trovata la foto, sì è vero, hai ragione. Uno è l'SVR, uno la potenza, uno la modulazione, la percentuale di modulazione, uno ovviamente lo Smith. Bella bestia. E poi come è organizzato adesso, nuovo, tenuto sempre in ottimo stato, veramente, non ha un graffio, bellissimo, voglio mettere nuovo, è nuovo. Aspetta che c'è roba al forno, ma tu riprendi. Capa, e pure l'aveva pure un dovede che c'è un DAC, ma tutti me ne parlano bene, e c'è che ha valvole e un sacco di cose. Ehi, Luca riprendi, puoi riprendere? Mandagli all'Antonio se c'è il contatto, la foto del DAC, la trovi su internet subito, magari in HD, foto, immagine HD, che si vedono bene i dettagli. No, Marco, aspetta un attimino che io ho fame, tanto qua è acceso, dai, se c'è qualcuno, due chiacchiere, tanto, ho mangiato qualcosa, forse un po' di insalata, ma stavo mangiando un paio di cracker, però, prendi, boh, se ti dà un paio con i cracker. Kappa, ah sì, Anto, è mastodontico, è più grande del Saturn, dice del Saturn a un chilometro ne fa il doppio in altezza, almeno credo, è una bella bestia, bella bella bestia, deve essere anche pesantuccio, questa non è roba di plastica come li fanno adesso, questa è roba tutto metallo anche dentro. E bacchilite, quanta quella roba lì, roba massiccia, vetro dentro. Vedi su bomba, quello lì pompa bene. Ehi, come i televisori di una volta, ti ricordi i televisori a colori, addirittura quelli in bianco e nero che erano pesantissimi, dentro era tutto il basamento in metallo, una cosa allucinante, allucinante. Cappa, sì, vabbè adesso. Diverso. Sarò fissato io, magari perché ne abbiamo avuto, ma gli alimentatori, cavolo, mi piacciono più quelli normali, quelli di una volta. Vabbè, ci sono anche gli altri che sono buoni, per carità. Mi senti? Molto. Ne ho due, ne ho. Il BC che ti ho detto è l'altro. Un altro che... E me li tengo tutti e due gelosamente, me li tengo, perché funzionano che è una meraviglia. Atto, digita nel telefonino Mark con la K, X che vuol dire 10, SSB, Mark 10 SSB. E guardalo, già te l'ha trovato Marco. Capiti? Suona come l'ha trovato persino Marco, quindi... No, dico, l'ha trovato Marco vuol dire che c'è, lo fanno vedere, no? Io una volta lo stavo cercando per vedere che lampadine montava gli strumenti, no? E non sapevo neanche dove cazzo sono le lampadine. E invece togli il tappo, normalmente togli il tappo dallo strumento e sotto il tappo. C'è proprio saldata la lampadina a siluro, capite? Ma stronzata a cambiare lampadina. Non devi aprire il radio, non devi aprire niente. Togli il tappo dallo strumento. E l'ho visto su questa foto. C'è anche una foto di un DAC Mark 9 con si chiama messo LED blu sugli strumenti. Sì, hanno fatto un misto di radio vintage con strumenti blu. Dai. Ciucchi. Ah, tu. Ciao Antonio, ma c'era. No. Quello del Mark 9 è inferiore a questo. Questo è 10. Gli strumenti miei sono tutti bianchi, le lampadine sono originali a Siluro, figurate che me li ha procurati Antonello a Foggiaro, perché mi voleva dare quelle normali. No, io voglio quelle a saldare, a Siluro a saldare. Se no te le attacchi a culo, ha detto, non le voglio, me le ordino da fuori. Avanti Antonello, buonasera. Sì, buonasera a tutti, belle scucitti. Antonello, quando sto uscendo bello di modulazione, allora quando vuoi tu già esci bello, sì. Sì, la 87 è questo, che sto usando, senza l'alimentatore quello cinese, e questo sembra che c'è il frullatore agganciato a fianco. Marco, è bene se uscendo, sto ricevendo col DAC la favola, vero Marco? Siete quasi rumate i segnali, no, che a casa, siete quasi lo stesso segnale. Anche a Tonello, posizione di Tonello non è buccia di gioca, vai Marco lì. Ehi, magari sta pompando Antonello. Antone, come sei, liscio? Liscio sono. Questo apparecchio qua tira fuori 20 watt, tondi tondi. Perché l'avevo, per sbaglio, li avevo tolto il 19,69 e li ho messo il 23,12. A me scoppi? Capito, siccome il montatore finale, come pilota c'è il 21,66 e il 23,12. In pratica questa parte ce la stavo per buttare, perché era di Giulio Padre Pio, la buonanima. Era pieno di birra dentro. L'ho asciugato bene, poi gli ho messo il finale aereo nuovo, i connettori tutti tolti, li ho messi a posto, ma gli ho detto se funziona bene, se no lo uso per pizzi. Invece ci ho messo 23,12, mi dà 20 watt e tonti tonti. Sei passato tu, Cla. Anche qua. No, me lascio una prova perché abbiamo la stessa potenza. Ma Antonello c'è una buona posizione. Antonello c'è una buona posizione. Antonello, ti sto ascoltando bene, ma bene che cazzo, non ti ho mai sentito così bene. Ma non lo stavi mai usando sta radio? L'ho sempre usata, già lo sai. C'ho quella, c'ho il Codex 4000 che mi ha dato Marco, e quello lo usa Giovanna con la Delta, capito? E poi c'ho il 3009, a parte quello grosso, già lo sai. Qua a casa arrivate tutti forti, oramai non ho più problemi, oramai. Non è più come una volta, oramai mi arrivate tutti sparati. Oh dai, che io però vi saluto perché mi hanno già chiamato due volte, sono rientrato qua a salutarvi. Ciao Antonio, piacere averti sentito, ciao Marcolino, ciao Antonio, anche a chi è in ascolto. Ultimo coso per Antonello, così riprendi. Mi stai ascoltando bene Antonio? Sto andando a cordarti a tenere più tre, bene? E a voglia, mi sembri... Claudio fa bene per gli 80. Figurati, c'è questo stacco, sembra lo stacco del pace 123, che era una cosa allucinante, sentivo anche nelle cuffie quando si dicevi boom, la zia. Detto bene, bravissimo, cazzo ti sei ricordato, infatti quando c'avevo il pace e la KB23 col turner più 2 da tavolo faceva questo cazzo di rumore. Questo è così, è relì, è così, devo fare. Ho provato a eliminarlo ma non si può. Vabbè, pazienza, già non è niente, dai. Almeno non posso mettere la portante. Ciao, un abbraccio a tutti, buon proseguimento, ci sentiamo. Vai Anto, KK. Kappa! Salutoni Claudio, dai, ce la risentiamo alle prossimine. Avanti Marco! Ciao Claudio, ci sentiamo alle prossime, dai, buona serata, buon tutto. E basta. Vai Antone. Ciao Claudio, ci sentiamo. A domani. Bruciato tutto me. Fai che salgo quello che dico io. Dai, adesso va bene. Quando lo uso da un po' di tempo si fa questo giochetto, la lampa 7. Ci fa suo contatto. Adesso sta funzionando. Mi chiamano. A dopo. Eia, buon pranzo, buon pranzo. Antonio. Va. Ok. Come mai? Ti ho perso, cavolo. È stato un momento che è proprio basso di segnale. Ehi, c'è un falso contatto, capito? Perché è l'apparecchio che non sto usando, il barattino. Capito? Allora a volte me lo fa. devo solo avere pazienza, aprirlo e fargli qualche saldatura a freddo ci deve essere, capito? Scappa. Come ti ha fatto a infundirlo di birra? Evidentemente parlava con della costa, cosa adesso? A me non mi è capitato di riempirmi il baracchino di birra. Di solito la tira mi cade in terra, se dovesse cadermi, ma è molto difficile. Ma sì, che era mezzo gotto, cioè, se farà dalla birra a Trento. Fiaco della papia, fiaco di imbriagona. Sì, tutto macchiato, stampato, tutto lavallo, tutto con la trierina, figurati. Con quella non potevi farlo, sennò domani ci saresti riuscito. Però sì che vale il residuo della birra, ogni tanto si sciocchezza, e diventa imbriaco lo baracchino burro. Andare, chi è rimasto nel canale? Marco si è spostato. Scappa, mi pare di nessuno. Ehi, cavolo, sto scherzando, questa ce l'ho quasi 10 anni. Adesso una meraviglia funziona. Questo qua mi avrei voluto anche uno omologato, ecco, così stesso. No, non posso attaccare la cosa perché dà troppo ingresso là. Altro non è che va in finale Mitsubishi MOSFET, che sono una bomba questo apparecchio. Cioè, l'ho sempre tenuto perché l'apparecchio mi è sempre piaciuto di più. Ma io lo vuoi, dai, fa modificato, te l'ho comprato. Care chi tu, capa capa. Via. Sì, proprio quello. Io l'ho pagato 215, 200 euro. E funzionava benissimo, me l'ho provato ieri, mi chiede anche al doppio room. Anche non me ne posso nulla. Non ho soldi per comprarlo. Troppo, sono un pochettino. Ma io lo conosco bene quell'apparecchio, fidati. Ma tu già esce bene però. Io avevo dei problemi, però se sono stato Fabrizio. Lo so. E quella poi cosa è? Ritorna a casa Alessi. Alessio? No, non Alessio, ritorno a casa. Non lo voglio prendere perché... Cioè, volevo prendere qualcosa di diverso, capito? Avendo i soldi. Volevo prendere un bel Kenwood, volevo prendere. Ma adesso vediamo. Ancora non so con biglietti nuda, non sono in grado di comprare niente. Si diamo un buon giorno, io non posso fare miracoli. Ma ti metti da parte, mi dovete non servizi, e mi dai fumi, ti metti da parte 5 euro ogni giorno, poi sono, ti fai il conteggio, adesso ti prendo un pacco di sigarette, no? Faccio un esempio, ogni giorno ne prendo un pacco, fai che da lunedì a domenica sono 35 euro. 35 euro, così. Ti metti a parte. Dovrò fare così anche per altre cose, dovrò fare. Ancora bisogna pagare i buffi, no? Che da voi posso pensare a fare quelle cose lì. Ma che cose potessi fare? Lì a fuma? Sì, purtroppo sì. Non ha preso anche quella. Maracchino imbriaco va. Tutto arrosso, ci dà l'idea, va. Aspetta. Antone, se ne scende a 9 di segnale, lo sai. Tutto scaricato, tutto. Dentro niente pare. Oh, Antu, l'altro giorno mi hai fatto pisciare di risate, hai fatto la battuta. No, che ci sono le prove tecniche di Ludrondi. Ah! volta, tanti anni fa, già mi davo aria al baracchino, ma per ridere, ma non è una cosa bella da sentire. Ragazzi, no, appunto, l'importante è ridere, a boh. Ui, ui, vabbè. Oh, io so che la compra sono, insomma, un poco di vino, allora si riprende, che la birra l'hai finita a durare. Dopo lo guardo, dopo la paloma gioca, no? Ho pensato l'altro adesso, quello omologato, il Polmar, come sto scendo? Benino. Ma c'è il malacchino porno? Porno no, Polmar, detta X40. Ma sono un po' lecco. Abbasso l'ecco? Aspetta, fai così, no, no, aspetta un attimo. Ora, guarda un po' così. Già va bene così, dai, lascialo stare così. Va bene, d'accordo. Ah, il moto pompa. Allora, sono usato il lavandino ZX40 con l'M1000. Si sente l'eco, 1, 2, 3, qua. Non mi ascolto io, Ho niente, ecco. Ma ecco lo veneno. Ma scusate, ho sbagliato io. Prova. L'autoascolto dov'è? Boh, tutto a menù qua. Prova, Antone, com'è? 1, 2, 3, 4, 5. Va bene. Era un più tecnico dovrebbe, però comunque va bene, non dà fastidio. Scheda Major rimane. Già va bene. E questa vi piace? Sì, è leggero. Oh, ecco, ho acceso l'altro. Prova. Sì, l'ho fatto rapido, in modo che non sovrasti, solo che... No, sei trudiente. No, con la bocca, ho provato... Oh, a falcone. Ai, Marcolino, caro. Togliati le calze. Mi tocco le gambe. Puoi sentire così. Se no gioco della cassetta. Quanti anni hai? Adesso ho tolto tutto, anche il bip, aspetta, tutto a menù qua, vai in ora buona. Antone, ti piace il bip? L'avevi sentito? Mi piace, a voglia. Non sembra quello di quei PMR giocattolo, quelli omologati? Sì, la prendi per esattamente. È moderno, Vabbè, alla lunga ti mangia il cervello, mi immagino che ce l'ha così. No, che torna il mal di testa a Luca, se no, aspetta che tolgo tutto. Mi periodo, Tolto, là, meglio niente, nature, né eco, né bip, né trick e ballacche. Gappa, no, io ogni tanto già l'ho messo, già, no, lo tolgo magari perché non piace, ma se ho già rubongo, il bip lo lascio sempre, là. Ma il bic, sì, il bic come le penne e il raso, il bic. E dicevo, il bip è nel mic o nell'apparato? Nell'apparato, è tutto integrato, questo è fatto così. Che non è il Polmar però quello. No, è l'Intec 550 Power, questo è. Ah, me lo ricordo, sì, quello che aveva volendo i 20 o 25 watt. Eia, sì, quella serie mi piaceva. E ti dico che in AM non è male, perché io ne ho sentito altri di Intec non uguali ma simili, che però non... tutto cupo, tutto barattolato, era una cosa allucinante. Forse toccando qualcosa dentro si riesce a migliorare. Eia. Luca, hai mangiato? Luca sta ruminandomi. E sicuramente ma niente. Oh, yeah. Sapete se c'è qualcosa di bello in TV stasera? Qualche cosa, qualche film appassionante, niente. E qualche film pornografico sarà. Sì, su cielo, vabbè, cielo manda roba erotica, non porno. Porno non ne può mandare. In chiaro non ne può mandare. Tu che ci bucacci un altro, so, così. La troppia è già appena appena che cosa, riguardo appena appena che cosa, tutto finito. Oh, sento roba di pompieri scendendo in piano Umberto. Sirene a oltranza, va? Deve essere che la pioggia o il vento ha fatto danno da qualche parte. Peccato la pioggia, molte case senza acqua. Se non sono fatti bene le cose. Ma ieri capo, quando sono venuto qua, vabbè che qua è un po' particolare, perché anche se vai lì a grattacielo c'è il vortice, c'è. Cavolo, c'era il vento contrario forte, ma forte però. Posso immaginare. Ma doppio rum era rientrato dopo che ha portato il cane fuori, che mi ero allontanato per andare in bagno anche. No, non è rientrato. Sì, sento un bel di sirene, però non capisco se che direzione stiano andando. Ma a me sembra un vigile del fuoco, ma potrei sbagliarmi. Non lo so, no, qua non ne sento. Boh, magari sono da un'altra parte. Non è che io sia tanto lontano da te. Dovrei aprire il lucernaio e ascoltare fuori, ma qua non ne sento. Sì, Antonè, vabbè, guarda che poi stamattina, vabbè, inutile dirlo, mi sono svegliato tardi, poi stasera c'avevo due commissioni da fare e non ti ho chiamato, è relativo poi al messaggio di ieri. Va bene. Sono a casa oggi, non sono uscito per niente, mi sono pigliato un vetro raffreddo ieri per me la birra con Giovanna, capito? Ehi, ma WhatsApp ti funziona? Come mai gli SMS? Ma già funziona, voglia. Ma tu mi hai mandato SMS, non era WhatsApp. Che poi sembra una chat, cioè con lo smartphone sembra una chat tipo WhatsApp. L'interfaccia è simile. Lo so. Me ne sono accorciato. Ho detto magari ha finito, no, il credito, no, non ti farebbe mandare messaggi. Boh, dipende dall'abbonamento che hai poi. Stiamo andando in calando, io mi sto mosciando piano piano, tutto mi sto mosciando. Ok, adesso funziona, sta andando, sì. Sì, puro droppo. Io stavo cenando, là. Questa mal di testa mi è passato, non dico del tutto, sono un po' stordito, perché quando te lo tieni troppo ti stordisce. Sì, c'è volte me lo fa il balacchino. Lo sai, quando, soprattutto con modulazioni forti, cioè ti prende un po' la testa. Infatti in cuffia deve essere ancora più tremendo, ascoltando in cuffia. E cosa prendi tu, hai detto lui? Io uso il Brufen generico, va bene per tutto, per tutti i dolori. Tu hai detto Occhi, no, come si chiama? Occhi Task. Quello lì, fanno la pubblicità in televisione. È buono, sì. Sì, è efficace, da. Praticamente il dosaggio di meno lo puoi prendere senza acqua, come ci vuole più grande, lo stesso non ce la fai a berla. Cioè, se ti metti già ce la fai anche senza acqua. Comunque, niente, già. Questo a proposito dell'acqua, mi devo prendere l'acqua da fuori. Già fa bene, ma già, oddio, fa bene. Trocca ma dopo un po', da, qualche minuto. Di nuovo Antonè, di nuovo Santiago 9, sì. Ehi, adesso invece si è ripreso da solo. Ok, già va bene, lui sta risistemando. E ha quel tempo fermo, quasi un mese, anzi forse due. Questo baracchino qua, capito? Se vogliamo perché altro l'altro, in PMR, eccetera, eccetera. Ehi Antonè, ma il PL te lo fa o proprio l'apparato? È risolvibile? Cos'è? No, un falso contatto vicino al finale, cioè, capito? Deve essere qualche salvatura al freddo. Capito? Adesso devi contare che in camera c'è fresco, non c'è più caldo come prima, 30 gradi, quindi le salvature tendono, capito, a fare contatto, a volte no. Ehi, non siamo in Antartide, no, all'anima? No, c'ha in confronto agli altri a 15 giorni fa, oggi c'è più fresco, la verità, se dica. Anche ieri, guarda, sono, quando sono andato a mangiare la birra, ragazzi, c'avevo più freddo io che la bottiglia di birra. Sì, è vero, è vero. Ieri ho sofferto il freddo anch'io un po' a casa, cioè è il primo giorno che ho acceso la stufa elettrica, mi vicino alle gambe me la sono messa. Ma è questo sclerando al Ponte Cisar. Quello solito della Sardo, ma no, no, nulla, scusate, stavo il ricevitore acceso, c'è. C'è uno dalla Sardegna, ogni tanto sclera e se la prende con tutti. Il radiatore dovrebbe essere buono. Che frequenza è? 431-2375. È il Ponte Cisar. Ha detto, dice, tipo, se avete problemi voi, dice, ve la prendete con gli altri. Un giorno ho sentito una frase ancora più delirante, una cosa folle, dice, togliene il coso da lì, aspetta com'era. Ma non te la so nemmeno riferire la frase, una cosa delirante era. Ah sì, già ce l'ho già memorizzato la frequenza. 431-375. Ma credo che sia un radiatore tipo Nuoro, Oristano. Però lo provocano, lo sai, lo provocano. Entrano certi su quel ponte a dire pastore, roba leggera, roba contro i sardi, dicono, capito? È questo che già si incavola già di suo, no? Se in più lo provochi, non ne parliamo. Ma gente di merda quella. Si fanno furti solo dietro un apparecchio. Poi voci continentali, anche, dice, sardignoli, però vengono a farci le ferie qua, capito? A portare il Covid in Sardegna, la mazza ne scenda. Luca, ne morro niente, cosa c'è Dea? Non c'è niente, cosa c'è? Se ne sta visto qualche topo in camera, per carità, vabbè, purtroppo ci sono gli ignoranti, Marco. Ci sono dappertutto purtroppo, hanno visto di offendere, ma vabbè, no, io frequento, cioè prima frequentavo molto una chat, a me mi mangiano i grogu, ma grogu, sardignolo, pastore, mi dicevano poco di cose, ma alla fine sì, mi incazzavo, ma poi non conviene, bisogna ignorarla questa gente. Sì, a me è importante, vabbè. Vabbè, anch'io, io faccio autoironia, cioè anche io dico che ho parenti terroni, che sono terrone anch'io, ma è una cosa che fare autoironia, è una cosa che entri in una posta e tu basta ricambiare, digli mangia polenta, roba del genere. Buonasera. Sto mangiando merda uguale, ciao Gianni, e beh, avanti. Ehi, mi sto mangiando una pizzetta. Oh, io, cazzo, pizza. Buonasera a tutti. Ma stai uscendo bene già? Non ti ho capito. Non stai uscendo bene. Non ho toccato nulla. E adesso com'è? Domanda, bella mossa, buonasera a tutti. Ciao già, è la pizzetta che fa interferenza. Ma cagata. L'ho presa qua al volo sotto casa, dai. Comunque, rinnovo la buonasera, dai. Buonasera a te, buonasera Gianni. Bubu, fino a che siete tutti fondo scala, tutti fondo scala, è sempre incollato a 30. Pure Gianni è forte. E se di vicino, siamo tutte e quattro vicini siamo. Ciao Antonio, buonasera. Stamattina sono uscito a fare delle commissioni, mentre entravo a casa ho alzato gli occhi al cielo e ho sgamato la tua antenna. E dov'è? E dov'è? Già lo sai, dai. Panificio toscano, dai, lì vicino. Allora già lo sai dov'è. E la mia lo sai dov'è già. Aspetta che devo mostrare la bolletta in bocca. Cazzo, cocco. Allora io mi ricordo anni fa, quando c'era Giovanni Puddi, che le canzoni lente le faceva buone, cazzo, gustose. Adesso questo che c'è adesso, non c'ha più quel sapore, quando cambia mano è inutile, quella è la musica. Secondo me è diverso anche l'impasto. Ma ce n'è uno in piano, cambia tempo, magari c'è il figlio o altra gente. anche l'impasto fa la differenza. C'è chi ha ricette segrete tra virgolette, vabbè. Allora Antonio e Marco, vi siete parlati sopra, io nel frattempo sto tirando morsia. Alla vostra salute comunque. Capo, ho detto che ce n'è qua uno in Piazza Tola e le fa buone, non sono male. Dove lavora Alberto, me non so, già qualcuno ci chiede chi canta. Sono un po' pappiena, parlate voi. Come dico io, l'altro giorno Claudio ha detto, Claudio non posso parlare che ho la bocca impegnata. Beh, che c'è così. Meglio la bocca che... Vabbè, lasciamo per... Insomma, tutti ma niente, sì, di là. Ehi, vabbè, non coincidono gli orari, a me mi tocca a mezzanotte la cena. Dopodiché una notte insonne, o quasi. Come va a mezzanotte? Abitudini, Antù, abitudini. Noi prendiamo tardissimo, alle 6:30 di sera, pranzo e la cena a mezzanotte, se ne abbiamo voglia. Cazzo, e te ne bisi a mezzanotte a magna? No, non che è mini beju, io vado a dormire all'alba, mi, praticamente, Anto, magari mi viene l'abbiocco guardando la TV, però poi mi sveglio e dormo da molto, ma molto, ma molto tardi. E praticamente è un pipistrello, mi, come dice Claudio, ora sta a pignata. Sono cattive abitudini quelle, molto cattive. No, noi no. Lui a che d'ora si magna e a che d'ora a letto. Sì no, oia, me ne pesare un gucco domani. No, no, no. Ah, adesso c'è la bocca libera. cosa volevo dire? Ah no, vabbè, per Antonio, cioè, ho buttato lo sguardo su in alto e ho visto, dai, comunque grossi ostacoli non ne hai, dai, ho visto che l'antenna è abbastanza libera, dai, ostacoli grossi intorno non ne hai, quindi va bene, dai. No, la rottura del ballo, sai cosa è? Che se tu sali in Piazza Colonna Mariana, cioè non piazza, l'altra via, vabbè, in Piazza Colonna Mariana, se tu vedi il palazzo è un pochettino più giù di te, capito? Dov'è? Il problema è quello. Poi di altro, di ostacoli non ne ho, non ne ho problemi, però sono un pochettino infossato, se tu lo guardi bene, cavolo se si vede. Eia, eia, no, no, io dico, parlo proprio di ostacoli che sono, che hai proprio molto vicino, cioè ho alzato lo sguardo, ho buttato l'occhio, ho visto che intorno l'antenna è libera, cioè vicino, cioè stiamo parlando di insomma, di quello che c'è intorno, poi chiaramente gli ostacoli grossi, quello è un altro discorso, però pensavo che fosse più infossato, dai. Però visto l'antenna è più o meno libera, dai, quindi magari metterla, tirarla su di un paio di metri già non gli fa male, dai. Poi giustamente, come dicevi tu, i grossi palazzoni fanno da muro, e quindi niente, dai, comunque già non prova, già lo sai, no? Cappa, vabbè, tu esci più di me, perché non hai problemi, non sei più in alto. Se è stato più un altro euro, eravamo stati alla pari, eravamo quasi alla pari. Purtroppo io ho questo problema. Ok, riprendi Marco. Sì, quasi quasi mi accendo la TV, dai. No, stavo cercando informazioni su quella radio, quel DAC, ma non riesco a capire cosa... Qual è la valvola di trasmissione, dico? Trovo un bel di siti. Ah, tu l'hai trovata poi la foto su Google del DAC Mark 10X, puoi mettere anche. No, la dovrei vedere bene com'è scritta. Vabbè, dai, io poi la vedrò. A pulire. Perché Gioruca? Come detto, cercano il vostro DAC. Andavec, avanti l'amico. Sta bene avanti. Antonè, di nuovo basso ieri. Giudizio, una piaggiaro di vino che c'ha parecchia, guarda che funziona più bene. Giù che giù, giù che giù. Come scritto Marco, DAC con la K o con la C? K, DAC, Mark con la K, X, che sarebbe il numero romano 10, oppure metti 10 direttamente. E beh Gianni, lo perfetta. Avanti Alessio, buonasera, sta mangiando una pizzetta. Si rota che stai mangiando la pinzetta. Accendo quel fuoco lì, da quella pratica, tutti quei positivi idee che ci sono. Che non l'avevi manco fatto entrare qua. Guarda, lasciamo perdere. Doia. Aspetta che se non mi separo lo mosso. Aspetta, ti passo Antonio, avanti Antonio. Capo. Onde strabaggi, onde vedo che si mamalucchi. Anto, guarda che te l'ho mandato su WhatsApp. Ah, su una tua fame, e c'ha vedi. Mia. Ogni bestione, ecco. Mia Tino, mi. Tino, bubu. Chi è? E chi sono? Ah, Tonino, vabbè, un attimo di... C'è un volume un po' basso, mi sembra Vittino, e beh. Bisogna parecchio. Salutoni tutti, gli amici sono qua, anche a Pompozzi. Ciao Tony, saluto di ben sentito. Ah, Tony, quanti anni è che sei mancato in frequenza? Non ho capito. Ho detto quanti anni è che sei mancato, poi sei rientrato dopo quanti anni? Dopo 16 anni circa. Ma vabbè, pure io poi avevo lasciato, perché tanto facevo TV guai, mi tagliavano il capo, spesso e volentieri. Alla fine mi sono arreso, non ci bucato tutto. E poi ci ho riprovato, là. Dopo qualche anno sono rientrato pure io. E un mese con la corsa d'ora di vendere tutto, ma... Tony, ti domandano quali? Cosa? Ti chiede il pane se rimane fermo, no? No, ho altra roba che ho portato entrare, no qua, sulla 27. Vabbè. Se non puoi entrare qua, te ne vai da altre parti ad ascoltare. No, no, io entro senza ascoltare. Vabbè, se entri, vabbè, lo stesso. Se andare, se lo studi e ti prendi la patente. Non in quella frequenza, altra, già lo sai. Ah, sì, ma dico, se vuoi andare oltre, ti prendi la patente. Posso pedire la mia moto difficile. Se mi accetta la pensione quest'anno, mi prendo la patente. Devi fare online, Tony, però adesso. Il patentino si fa online, non c'è più scendere a Cagliari o cosa. Meglio così. Quella è quella più facile, ma se c'è uno che ti suggerisce dietro e sei a posto. Certo. Allora è un gioco, lo posso fare pure io. Allora, per prendere la patente non devo avere manco precedenti penali, giusto? Esatto. Ecco, meno male, non c'ho nulla io. Io sono Virginella. Signor Kawasaki, buonasera. Buonasera anche a te. Allora, non avevo il tempo andare a rubare, raga. Stavo sempre lavorando, un po' calesivia. Buonasera, Tonino. Ciao anche a te, chi sei? Tonio sono, Bombolo. Ciao Bombolo. Beh, c'ho le cuffie, ho preso un paio di cuffie belle nuove stasera. Sento un pochino diverso come modulazione. Capa, magari mi senti meglio, mi senti adesso, perché ho fatto delle migliorie, quindi arrivo bene. Come radio ultima, perfetta, 9.10, 9.15. Capa, questa va bene l'antenna, pensa che sia San Camillo, e mi senti bene. Capa, anch'io non pensavo di arrivare bene a Sassari dalla posizione in cui mi trovo. A voglia, che sappi di? A voglia. Antonio, te sempre bene, ti arriva. Sei 9.20. Anche da me. Andare, devo sollevare altri 3 metri da terra. Anche da me sei 9.20. Luca. Sì, dimmi. Devo sollevare altri 3 metri da terra. Sai di sì, ma va. Ti giuro. C'è questo tettuccio che mi dà fastidio, devo superare il tetto. Come mai vuoi più alto? Che antenna c'hai? L'antenna è una Midland. Antonio, che antenna è? Energy. E vabbè, la chiamano Energy 5 ottavi, poi via 27L, sempre dell'assedio e comunque. No, no, c'è scritto Midland. E vabbè, me la faceva l'assedio, ma quella. Si è marcata Midland, ha capito. C'ho ancora la scatola conservata. Tutte e due la fanno Antonè, tutte e due identica, la Sirio ti dà i manicotti per coprire le giunzioni degli elementi. Ciao Marco. Ciao Tony, stavo qua ravanando con i messaggi del coso, del cellulare. Ehi Antonè, la fanno tuttora, però ricordati che quell'antenna è prodotta, credo in Cina, per esempio la Midland mette solo il suo, come dire, il cartoncino, come dire, l'adesivo con la scritta Midland, modello dell'antenna, numero di, c'è un numero seriale, non so, numero di catalogo credo che sia. Però la scatola che avevo io della Midland era generica, c'era scritto Ociantenne, che in tedesco vuol dire antenna base, praticamente, tradotto al tedesco, antenna base. Ho capito, e comunque funzionava bene, solo qualcuna c'era stata, ma poche me, che hanno avuto qualche difetto, l'unico difetto che hanno era dove c'è lanciata la carica a posto di essere non la prima saldatura, quella di sotto, e neanche la seconda, quella dove c'è che cosa ho circuitato. In pratica la terza che saldatura che c'è si staccava di solito quella dall'alluminio. Hai capito? Quindi bisognava risaldarla nella piastrina che c'era, una l'avevo presa e modificata. Ho fatto un foro vicino a quel foro che c'è per dove scarica l'acqua, in pratica, se dovesse entrare l'acqua nello stilo. Ho fatto un foro a fianco per tenere la base, perfetta, non ha più dato problemi. Poi vulcanizzata e apposta. È un'antenna che rende bene. Più di quel watt non li puoi mettere, naturalmente. Che se, io ho fatto la prova con 450, sono quasi arrivato a 500, quanto sei, quanto è durata? 5 minuti giusti, la voce asciutta la carica. Sì, sì, perché quella è data, mi pare, tipo 500 watt picco, cioè in mano laterale, nemmeno continui, in AM ne puoi dare un terzo continui, la metà forse. Ascolta, chi è che aveva avuto un problema con un'antenna simile? Forse a mezz'onda, chi era? Barracuda? O ricordo male io? Ehi, era Antonello Barracuda, sì, che gli si era staccata la saldatura. Infatti poi aveva comprato un'antenna nuova e la Mantova, e poi gli è rimasta in pratica lì, quando la smontava non si staccava più un elemento dall'altro. Io non sai, la Mantova, quando fece di modificare in meta che l'ha fatto tra uno stile e l'altro, di metterci queste specie di coni, e la gran cagata, perché si incolla. Sono un giorno senza sentirlo Antonello Barracuda. Sta lavorando, mi pare, e me lo penso. Quando entra volevo fare una prova a vedere a Ussi come arrivavo, lì non ci ho mai fatto, non ho mai provato a Ussi. E lui è il punto più basso di Ussi, proprio all'ingresso, vicino alla fontana, quindi figurati tu, quindi, ma dovrebbe arrivare per forza a casa tua, dovresti arrivare tranquillo, perché tu sei aperto lì per Ussi. Quando abitavo io con Vittorio Emanuele, sparava molto bene, sparava la gran pelle. L'unica cosa che già l'hai vista quando l'ho staccata, ma con un mese lo studio pigiato, gli ho detto va a fanculo a coso, mi ha detto bella antenna, mi hai dato, no, va, funziona bene, non si piega, a primo vento, cocco. Ma quello lì era della Sirio, me. Me l'aveva fatta pagare 50 euro, me l'aveva fatta pagare quell'antenna. Infatti ho detto guarda, se la poi così non le voglio più, se me la dai, tutto in alluminio nel folato, proprio alluminio, e resta l'antenna in vetrovisa, gli ho detto, come quelle di una volta. Gli ho detto chissà quanto le avrai in magazzino, buttate giù. Se l'ha venduta. Ma lui ha avuto problemi con due antenne allora, con la Energy e con la 827 per caso? No, mi ricordo con la Energy, io poi non mi ricordo se ha avuto problemi anche con l'ultima che l'aveva comprato, è la verità. Sì, ma l'ultimissima che conosco io era quella un quarto d'onda AV, e dice che si è trovato veramente bene anche come DX. Vai Tonino. perché sì, ma che io non ho capito che problemi ha avuto.